bene, d'accordo. Daniele, già l'hai saputo, era malato, quindi la macchina già ce l'hai tu, sì. Sì, mi ha chiamato anche la madre, ho detto a riprenderci, tanto problemi di sfatto per te, l'aria non abbiamo fatto tanto. Vabbè che non si lavora nessuno questa macchina. Vabbè, ma se ti crea problemi, vabbè, non c'è, non sono difficoltà, di vabbè. Ho visto, salvo con Franco a prendere, la metto giù in garage, quando si riprende viene, se la prende, capito? No, non c'è problema per quello. No, grazie a Dio, già ne ho disfatto, è tanto preoccupare, già ne abbiamo, non sarà una macchinetta a occuparci di mezza officina. E gli ho detto riprenditi bene perché si stava male, quando mi ha telefonato non l'avevo neanche riconosciuto, l'avevo sentito il giorno prima per la prima volta al telefono, quando mi ha richiamato sembrava un uomo vecchio, cioè aveva, non aveva più voce. È tanto male, vabbè, purtroppo questo virus che c'è in giro sta costringendo molta gente a stare a casa, a stare a letto. Lui poi è praticamente tutto il giorno fuori, riprendi Mauro? Claudio, dimmi, ti hanno parlato sopra, ti hanno sovramodulato, non so chi sia, comunque un segnale più forte del tuo. Vabbè, vuol dire che è più forte. Mauro, riprendi. Purtroppo le macchine sono così, ci sono quelle che magari funzionano bene, quelle che funzionano male, quelle che hanno una riuscita superiore e così via. Io ho sempre avuto macchine modeste come tutti, però non mi sono mai, cioè non mi sono mai occupato o preoccupato di chi fosse la migliore, la peggiore. Roberto del mestiere, quindi sa quello che dice. No, ma io Claudio, Fiat dopo ho fatto Peugeot, Opel e adesso Ford. Vabbè, tu già hai sempre avuto, mi pare che avevi anche un'altra di macchina, tipo cos'era Ford, no? Opel. Cilindrate piccole, però ho sempre avuto insomma macchine tranquille che non mi hanno dato problemi. Dimmi Robert. No, vabbè, sta facendo di una vale l'altra. Io le vedo a livello costruttivo, sto parlando, quando smonti un paraurti, quando le togli un faro, quando togli uno specchietto, togli un pannello allo sportello. Sicuramente non sono d'accordo con quello che ha detto poco fa Gianni, le coreane sono un gradino più in basso delle altre. Ho detto le Toyota a livello di utilitarie sono costruite in media, per dire, per staccarne un paraurti ci metti 10 viti, mentre se guardi le Hyundai ci sono 3 bulloncini in plastica e basta. Così la Opel hanno perso tantissimo di qualità, soprattutto la Ford è quella che ha perso più punti di tutti secondo me. La Fiat l'ha guadagnata i punti, non parliamo di semplicità di lavorazione, la Fiat per staccare lo sportello sono 2 viti e lo tiri via. Se ti metti a lavorare sulle macchine coreane, mamma mia, non sono, diciamo, paghi perché nessuno regala niente, per quello che le hai pagate ce n'è per i pucci, però non sono superiori sicuramente alle macchine Fiat. A livello utilitario la Fiat è all'avanguardia, non me ne frega niente di tutti i discorsi degli altri, io ti posso garantire, le macchine perfette non esisteranno mai, però la Fiat è una buona macchina. Beh, è qualità prezzo, sappiamo che è così, la realtà è quella, poi io non è che posso insistere con te perché so che cosa fai e qual è il tuo mestiere, perciò non me ne intendo. So solo che nell'arco degli anni la Fiat ha curato moltissimo tante cose, quindi è riuscita ad avere un exploit rispetto ad altre autovetture molto molto superiore. Questo è il discorso. Poi tutte le altre cose, c'è chi piace la macchina coreana, c'è chi non piace. Io non ne ho mai avuto, boh, non so di che tipo siano queste macchine coreane, che cos'è la Hyundai coreana? C'è un'altra le coreane hanno avuto un grandissimo salto qualitativo, come l'hanno avuto le giapponesi, però le giapponesi sono, puntano più sulla qualità, le coreane puntano sui grossi numeri, ma soprattutto i grossi numeri di vendita. Infatti la Hyundai adesso attualmente, non so se l'abbia già superata in Italia la Toyota, ma saremo molto vicini. Hanno delle caratteristiche tecniche magari diverse e quindi è per quello che è così. Mauro, dove sei arrivato? Posso? Vai già. Sbadigliare di meno. Ah? Liliana, sbadigliare di meno. Non sei già la sbadigliare? No. Secondo me l'opinione mia è questa, che le macchine estere ti forniscono tutto già dalla casa, tipo airbag, 6 airbag, eccetera, eccetera. Lui alla Fiat devi mettere tutto di tasca. Quando io ho preso l'appunto, ci ho speso 35 milioni per mettere tutti gli accessori. Ma già, ti risponde Roberto in che anno, Roberto, avvenivano queste modifiche? Vuol dire, hai speso 35 milioni per un appunto. Esatto. Guarda, hai caputo abbigliato, l'appunto, tutti quelli due punti con 35 milioni, ma stai scherzando, cioè. Vabbè, non ho preso un appunto, ho preso un appunto accessoriato. Era un LX 16 valvole, 75 cavalli, cerchi in lega, il manubrio che potevi alzarlo, abbassarlo, riscaldato, eccetera, eccetera. Ci aveva tutti i lupi, guarda. C'avevo anche io la LX, 75 LX, ma non costa 35 milioni, forse il pagamento in 10 anni, sommando tutte le rate, eccetera, eccetera, ma di base costava intorno ai 10 milioni, 12 milioni, non di più. Allora io ti faccio presente che io macchina rotta non ne ho mai preso, le ho sempre pagate in contanti, prima cosa. E poi se ti dico che così è così, vuol dire che ci ho messo una barca di soldi per accessoriarla, e quello è il problema. Mi è venuta così perché ci ho messo un sacco di soldi per mettere tutti gli accessori. Ho messo casse che non erano le origini, ma erano da 100 watt, ho voluto fare bene, diciamo. Però ci sono preso 35 milioni. Gianni, la 75 LX ce l'avevo io e la maggior parte degli Ups, che stai dicendo tu, sono di serie con la macchina, a parte l'ABS e il climatizzatore, c'è di lei regolabile d'altezza, tutto il resto era tutto di serie, vabbè, c'è chi lega, vabbè, li ha voluti, quelli non sono di serie, però tutto vernice metallizzata, sfarri con doppi proiettori, fendinevia, cristalli elettrici, comando, era tutto di serie, nella ELX stiamo parlando. Ma tu da quando l'hai presa? Io ti sto parlando di 6 anni fa, va. Aspetta un attimo, scusate un secondo, Franco. Claudio, passa un attimo canale 2 là. Dimmi canale 2 là, sì, un secondo, riprendi Roberto, un secondo solo, rientro subito. Sì, no, ma Gianni, ma tu stai parlando di vecchi appunto? Quale terra sei passato? Dove sei andato? In Africa? Dove eri? incredibile, ma che fine avrà fatto? Amico mio, tu e chi ti ha più cercato non ti ho più visto. So. No. Sì, in fondo scala, va bene. Così, va benissimo, perfetto. Aspetta che proviamo l'LPD a vedere se mi senti, lo sentivo a fondo scala. Ah, e allora quando non c'ero io? Eia. Ti ascolto bene io, là. Sì, al massimo, qua siamo attaccati, fra. Non ci può disturbare nessuno, l'hai visto sui canali 10, può fare c'era quello facendo la pernacchia. E io ignoro sempre, che non me ne fotte nuda, non me ne fotte nuda. E che era? 950, 960. Mi dà la bacio. interessa niente a me, io ignoro sempre, continuo a ignorare, continuo a starmene tranquillo e sereno, non me ne affutti nulla. Adesso devo vedere, c'ho praticamente quel commutatore là e gli ho fatto una saldatura, cioè la saldatura dell'ingresso, dell'antenna che era dissaldata, ecco perché faceva quel lavoro lì. Adesso il posto lo volevo provare a ver se mi aspettavi bene, però ci spostiamo sul 30, dai. Vai al 30.